快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 听众朋友，欢迎收听北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6马歌剧院合唱团乐团演出，塞拉芬指挥，下面就请您连续欣赏。 Thank you.

bellezza in fiora e là fuggevole, fuggevole la sinebria voluta li viene dal cifre mitic che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Che vi turbò? Sto meglio. A inconta guisa ucciderete, a verve d'uopo, cura dell'esser vostro. E non potrei. O se mia foste, custode veglierei per vostri soavidi. Vedete, a posti al volo una di me. Perché nessuno al mondo ama. Nessuno. Tranne sol io. Ma io ero sì grande amor dimenticato mio. Vivete con voi un cor. Un cor sì, forse, che a quello richiedete. Ma se ciò fosse, non potreste allora cegliar. Dite davvero. Io non vi inganno. Da molto è che mi amate. Ah sì, da un anno. Un dì felice et Partite, parto, addio, via. Oh! tasca il giorno o il giorno muoia, sempre lieta ne ritrovi. Tutto il passato. bollenti spiriti. Il giovanile ardore alla tempra col placido sorriso dell'amor, dell'amor. Baldi che disse vivere, io voglio a te fedel. Dell'universo in me male, io vivo quasi, io vivo quasi in cielo. Dal di che disse vivere, io voglio a te fedel. Quasi in cielo, io vivo in cielo, ma l'universo in memore, io vivo quasi in cielo, ah sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi. Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te il commise? Fu la mia signora. Perché? Mirale mar cavalli cocchie quanto ancora possiede. Che mai sento? Lo spendio grande a viver qui sorrenti. E tacevi? In cui silenzio imposto. Imposto? Orba bisogna? Da Parigi. Orbanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora, il tuo cavallo a riparare ancora. Passato, perché, perché va tu? Impossibile, lui solo amar voi. preoccupare. Via presto il tempio sorgere e sarà l'or. Pensate, per voi non avran balsamo i più sopravviventi. Voi che dal ciel non furono ai nodi benedetti. Carunque dunque scordasi dal sogno seduttore, fate pensateci e siete in tempo ancora, e io che spira giovine, e Dio che spira giovine, e Dio che spira dai detti angeli tu. Thank you. Yeah.